Parliamo con l'elefante di Giuliano Ferrara. Buongiorno. Berlusconi e Veltroni si sono messi d'accordo, il che è una notizia negli ultimi tempi, perché stanno sempre a baccagliare, come si dice a Roma. Si sono messi d'accordo per uno sbarramento del 4% da introdurre nella legge elettorale per le prossime europee, che si faranno alla metà di giugno. Uno sbarramento che dà fastidio alle piccole formazioni politiche. Chi li chiama i partitini, chi li chiama i cespugli, tutti polemizzano contro la famosa frammentazione della vita politica e parlamentare. Il Parlamento italiano attuale, quello che è uscito dalle elezioni dell'anno scorso, ha superato questa frammentazione proprio grazie a uno sbarramento che ha tenuto fuori dal Parlamento alla destra la formazione politica di Francesco Storace e a sinistra i vari partiti della cosiddetta sinistra radicale, Rifondazione Comunista, il Partito dei Comunisti Italiani, la piccola formazione dei Verdi ed altri ancora, i socialisti o quel che resta dei socialisti, eccetera, eccetera. Il problema è che gli italiani sembrano sempre orientati alla semplificazione. La semplificazione è diventata la nuova regina dell'opinione pubblica. Tutti dicono no all'armata Brancaleone, così a significare formazioni e coalizioni diverse in cui uno tira da una parte, uno tira dall'altro, uno c'ha la falce e il martello, l'altro il sole che ride, eccetera, e poi alla fine non si quaglia, non si trova una specie di direttrice di marcia, di visione delle cose che dia alla gente la sensazione che i quattrini della politica sono ben spesi, che non è una casta, è un insieme di ceti politici che fanno i loro interessi privati, eccetera, eccetera. Questo è lo stato reale dell'opinione pubblica, che è molto polemica verso i partitini. Tuttavia c'è un'Italia che queste piccole formazioni politiche rappresentano. E noi abbiamo deciso oggi di dare loro la parola, di dare loro voce e di sentire con un campione di queste formazioni politiche di sinistra, Paolo Ferrero, che è il segretario di Rifondazione Comunista, l'erede di Bertinotti, il successore di Bertinotti, è l'uomo nella sostanza che ha preso in mano le redini di questo partito, anche scontando una scissione, la scissione di un'altra piccola formazione politica che sta per nascere, che è quella di Vendola, di Nichi Vendola, che è bertinottiano, che non crede nel partito della Rifondazione Comunista in quanto tale, pensa che si debba fare una grande alleanza tra diverse forze della sinistra. E quindi avremo Ferrero e avremo, anzi è già qui in studio, Francesco Storace. Buongiorno. Che è il capo combattivo della destra, cioè dell'unica formazione che è situabile nella geografia politica italiana, la destra dell'attuale coalizione di centrodestra che governa il paese. E per la maggioranza avremo Maurizio Gasparri e la discussione sarà su tante cose. Passerà questa legge? Adesso sono in atto proteste feroci, ci sarà un sit-in martedì, la minaccia dell'occupazione del transatlantico e dell'aula di Montecitorio. Però ci sono anche delle insidie per questa legge, c'è il fattore D'Alema, pare che D'Alema non sia molto d'accordo perché non vuole che Veltroni in particolare abbia il vantaggio competitivo del voto utile, se c'è lo sbarramento e questi non entrano nel Parlamento europeo, ancora una volta il Partito Democratico farebbe una specie di rubamazzo, insomma, ecco, si prenderebbe tutto. E quindi D'Alema, Bersani, tutto il suo gruppo importante, la sua tendenza o corrente importante nel PD non sarebbe molto d'accordo con questa legge, anche perché D'Alema vuole una politica delle alleanze larghe e non crede nella vocazione maggioritaria cosiddetta del PD, cioè il Partito Democratico che fa da solo. Bene, lo sbarramento del 4% per tenere fuori i piccoli partiti, le piccole formazioni anche dal Parlamento europeo, dove finora si è votato con la legge proporzionale, si poteva entrare con lo 0,5, 0,6, 0,7, insomma con pochi voti attraverso il meccanismo dei resti. Francesco Storace, capo della formazione La Destra, è molto molto arrabbiato, vuole andare dal Presidente della Repubblica e per dirgli, come racconta oggi in un'intervista al Riformista, non posso rispondere del clima di tensione che si aprirà nel paese. I toni sono molto, molto, molto forti. Parla di legittima difesa, parla del fatto che, essendo il suo partito accerchiato, emarginato, fuori del Parlamento, sottoposto anche così ad aggressioni non solo verbali, e lui a questo punto, se lo cacciano via anche dal Parlamento europeo, non può rispondere del clima di tensione sociale che si creerà. Se pensate che a sinistra il mite figlio di Craxi, Bobo, ha addirittura detto questo è un patto da Grecia dei colonnelli, beh, certo, potete capire che la tensione è forte. Storace. Grazie, dottore. Grazie per l'ospitalità. Figuriamo. Non è frequente, diciamo. Cominciamo col dire che noi non rappresentiamo proprio una formazione politica striminzita. Ricordiamo che noi in Parlamento non ci siamo solo per la legge elettorale, non perché non avevamo i voti. Abbiamo raccolto 1 milione di voti. Ci sono forze politiche che hanno preso meno voti di noi e solo perché stanno in una coalizione sono in Parlamento. Ma questo fa parte delle regole del gioco. Si sapeva prima, molto prima delle elezioni. Io adesso ho cominciato a raccogliere le firme, ne abbiamo raccolte a ieri già 30.000 tra gli iscritti, adesso stiamo partendo nelle piazze per raccogliere le firme, con la legislazione vigente, perché si dice 6 mesi prima del voto si possono raccogliere le firme per le liste. L'ho anche pubblicate sul mio affollato blog. E adesso vengo a sapere che devo fare un'aggregazione per poter superare il 4% a 12 settimane dall'apertura della campagna elettorale, dalla presentazione delle liste. Quindi dovrei riandare a tutti gli elettori a dire ci siamo sbagliati, ci stanno fregando perché c'è una politica suina, perché si ricorda il Porcellum. Sì. Adesso dopo Mortadella siamo passati ai maiali, perché fare queste cose è veramente una vergogna. Io non è che mi preoccupo se sto personalmente in Parlamento. Mi preoccupa che non abbia espressione la cultura politica a cui faccio riferimento. Noi abbiamo subito, la ringrazio per averlo ricordato, una serie di episodi di violenza a Pisa, in provincia di Latina hanno bruciato la casa, le mordo la casa di un nostro segretario di sezione, a Napoli hanno aggredito a bottigliate in faccia i nostri militanti. Non posso nemmeno presentare un'interrogazione. Se queste persone non hanno la possibilità di essere rappresentati almeno nella protesta verso il governo che non fa nulla su questo, si sciacqua la bocca con la sicurezza, ma la sicurezza è anche democrazia, questa gente si difenderà da sola. Ecco, i suoi argomenti, onorevole Storace, sono direi forti e credibili per il suo elettorato, per il milione di persone che ha scelto di votarla e probabilmente anche per un'altra minoranza di italiani che sono d'accordo con il fatto che siano rappresentati tutti coloro che hanno qualcosa da dire. Però che cosa ha da dire alla vasta maggioranza di italiani che è sembrata da molti sondaggi, da molti pronunciamenti, dire basta, no? la frammentazione in partiti trasportata ora che non c'è più nel Parlamento italiano l'andiamo a portare nel Parlamento europeo dove ci sono sbarramenti come il 4% e anche di più in molte leggi elettorali. Sì, non decisi una settimana prima del voto, ecco, ci sono sbarramenti che stanno nella tradizione di quei paesi, qui a partita iniziata. A quegli italiani dico di andare in edicola e chiedere quanti quotidiani si vendono, perché se ci fosse il quotidiano unico nel nome della semplificazione editoriale non sarebbero tutti molto contenti, se ci fosse la radio unica nel nome della semplificazione radiofonica non sarebbero tutti molto contenti, anche questo è pluralismo. Al Parlamento europeo non si deve eleggere un governo, si deve eleggere la rappresentanza delle culture nazionali. Quel trattato di Lisbona contro cui noi siamo, il Parlamento europeo non si contro cui noi siamo, accentua la tendenza dei governi a fare da sé addirittura senza unanimità, cioè l'Italia ci rimetterebbe. Noi vogliamo portare una voce critica al Parlamento europeo contro quel tipo di trattato e altre cose che potremmo 800 24 00 24. Vi sollecito a telefonare, vedo che arrivano le prime telefonate che tutte confermano questa insopportazione. Devo una risposta sulla semplificazione. Prego. Se gli italiani sono convinti che bisogna semplificare, lo fanno con la scheda elettorale. Non c'è bisogno di una legge per impedirci di poterci contare. Saranno loro a dire che non dobbiamo andare in Parlamento europeo. Non lo decidono i partiti che stanno in Parlamento. Bene. Abbiamo, credo, Paolo Ferrero in... Pronto? Eccolo qui. Eccoci qui. Salve. Ferrero, lei è il capo di Rifondazione Comunista e protesta e ancora non ha deciso se accedere o no alla proposta che le ha fatto Di Liberto di fare subito un cartello, diciamo, di tutti i comunisti. Falce e martello, senza indugi, senza il simbolo del lavoro. E dice Di Liberto con una cosa chiara, che non sia la vecchia sinistra arcobaleno che fa lì e prese solo il 3,6% dei voti, con una cosa chiara: entriamo in Parlamento a vedere spiegate col 4%, che superiamo, ed è anche molto meglio che stare lì a lagnarsi contro lo sbarramento insieme a tutti gli altri piccoli partiti. Non è dignitoso, dice Diliberto. C'è poi un'altra posizione, e vorrei che le commentasse tutte e due, che è quella di Gabriele Polo, il direttore del Manifesto, che dice c'è uno svuotamento della rappresentanza istituzionale, ormai contano solo gli interessi privati, Berlusconi e Veltroni se la sono cantata e ballata da soli, perché ciascuno dei due ha interesse a questo 4%, non gliene importa niente di quanto è rappresentativo poi il Parlamento europeo, è un gioco a perdere. Dice vabbè, allora saltiamo un giro, mica bisogna andare sempre a votare, saltiamo un giro, non votiamo alle europee. Anche Fabrizio Rondolino, un altro elettrone libero, diciamo, del mondo della sinistra, della comunicazione di sinistra, sul famoso e autorevolissimo Facebook ha detto saltiamo un giro e stavolta non andiamo a votare. Questa roba sta prendendo consistenza, lei che ne dice? Ma io penso che invece non si possano saltare i giri, perché la battaglia politica, lo scontro che c'è, le scelte che farà il prossimo Parlamento europeo varranno per tutti i cittadini, diciamo. E l'idea che da sinistra semplicemente ci si ritragga da quel livello non si capisce bene in nome di che cosa, da un'idea un po' strana della politica. La politica non è un gioco con cui si va a giocare gli amici la sera e si può andare o meno, è la condizione in cui viviamo, è la società, sono le leggi che si fanno, le decisioni che si assumono. Allora in questo senso, a mio parere, le proposte di saltare in giro sono sbagliate, così come penso che oggi sia sbagliato mettersi a discutere di che cosa fare se passa lo sbarramento del 4%. Io penso che oggi, queste settimane, questi giorni, siano il tempo in cui provare a non far passare questo sbarramento del 4% e provare a motivare, diciamo, il perché e perché i due partiti maggiori sono così interessati invece a farlo passare, non per l'allargamento della democrazia, ma per i loro interessi. Ecco, su questo ci sono, cominciano a filtrare dei dubbi. Ne vorrei parlare un momento con Maurizio Gaspari, che è il capogruppo al Senato del partito cardine, diciamo, della maggioranza, il PDL. Gaspari, c'è chi dice che questa volta, per esempio, lo dice un po' Bersani, mi pare di capire, lo dicono i dalemiani del PD, che non sono favorevoli a questo 4% di sbarramento. Loro dicono, attenzione, la cosa va seguita perché è molto curiosa, questa volta il voto utile potrebbe ritorcersi contro il Partito Democratico. In che senso? Ecco, questo è un passaggio tipicamente così un po' arabescato della politica. Nel senso che quando c'è Berlusconi da battere, quando c'è un governo della destra da fermare, allora la psicologia dell'elettore di sinistra è: concentriamoci su chi lo può battere, su chi lo può tenere fuori dal potere. E allora votiamo Veltroni, votiamo il Partito Democratico e i suoi alleati, e Di Pietro, insomma quel 34% che hanno raccolto alle elezioni. Ma quando non c'è questo stimolo, allora l'elettore di sinistra dice votiamo per dare una lezione a Veltroni, per farlo diventare più di sinistra, per farlo diventare più combattivo, più militante, no? Che è la polemica. O per cacciarlo. O anche semplicemente per cacciarlo da segretario del Partito Democratico. Come merita, dice Storace, che è cattivo e militante, giustamente. Allora, il punto è questo. Gaspari, secondo lei poi alla fine questo sbarramento troverà veramente i voti che servono per passare in Parlamento? Io credo che lo sbarramento sarà approvato perché ci sono state delle consultazioni, i gruppi parlamentari principali hanno dato il loro assenso. Se ci sarà coerenza tra quel che si dice e quel che si fa in Parlamento, la cosa dovrebbe essere, come dire, abbastanza agevole. Poi certo, la politica sempre insidia, problemi. Quello che dice lei, tutti questi ragionamenti sottili, guardi, francamente lasciano un po' il tempo che trovano, anche se esistono, perché vede, anche nel centrodestra, se vogliamo fare le, come dire, analisi dettagliate, c'è chi dice: noi da un lato siamo portatori di un forte disegno bipolare, vogliamo un'Italia con due grandi partiti che si confrontano, come in tutto il mondo occidentale, la Francia, la Spagna, gli Stati Uniti, l'Inghilterra, perché l'Italia deve avere 10-15 partiti? Gli elettori, mi pare che sin qui, hanno risposto a questa sollecitazione, almeno in prevalenza. Poi oggi c'è un Partito Democratico un po' in affanno, però grosso modo penso che sopravviverà anche ai suoi errori. Poi c'è chi nel centrodestra dice: sì, però in questo momento lo sbarramento forse serve più a Veltroni che a noi, perché se c'è l'appello appunto al voto utile, votare altri partiti della sinistra che non supererebbero il 4% vuol dire bruciare voti, tanto vale votare il PD. Quindi qualcuno dice, ma perché dobbiamo lanciare una ciambella di salvataggio a Veltroni che potrebbe recuperare un po' di voti in libera uscita? Allora guardi, io su queste questioni poi ognuno farà le sue riflessioni, Dalignani vogliono sabotare la legge perché vogliono cacciare Veltroni, si può dire di tutto. Io proprio abbandono questi argomenti, condivido l'idea dello sbarramento perché ritengo che la frammentazione, ma io questo lo penso da molti anni, anche nel dibattito della destra, io ho sostenuto per anni la teoria di un grande partito unitario del centrodestra, quindi le mie posizioni, come dire, sono antiche, insospettabili, possono essere condivise o meno. Ma l'argomento di Storace, cioè questo è un meccanismo di esclusione, non è un meccanismo di costruzione, diciamo, di un polo, è un meccanismo di esclusione di chi non ci sta. E lei, che è stato un vecchio compagno di battaglie politiche, civili, con Storace sul fronte della destra militante, quando Storace in modo così accorato dice, ma come? Ma noi abbiamo raccolto 1 milione di voti, ma noi insomma abbiamo pochi mezzi, pochi soldi, poca visibilità, vogliamo avere una presenza nel Parlamento europeo, vogliamo avere anche giustamente quei rimborsi elettorali, vogliamo vivere come forza politica. Vogliamo vivere come forza politica. Lei... Cioè, non so se è il problema, credo che Storace abbia il problema dei rimborsi elettorali, perché la fierezza della militanza non può, come dire, che c'entra la fierezza? Non fare lo spiritoso, Gasparri, perché proprio su queste questioni adesso vediamo dove vanno a finire. Vabbè, posso adesso parlare? No, certo che puoi parlare, basta che non fai lo spiritoso. Vabbè, però. Stavo difendendo, ti sto dicendo. Ho altri avvocati. Si è offeso. Niente. Ma non fai, perché stavo dicendo, se mi facesse finire, stavo dicendo proprio una cosa a suo favore. Sì. Lui pone una questione politica, non pone il problema del rimborso elettorale a cui ha fatto riferimento il direttore. Ma i soldi sono importanti, sono un fattore della politica. Sto dicendo una cosa fuori di strada. Cioè, chi ha Berlusconi alle spalle non ha questi problemi, diciamo. Di cittadinanza. O Romeo, diciamo. Allora, sentiamo un problema. Allora, secondo me Storace pone un problema politico di rappresentanza, no? Sì. Non pone un problema del rimborso elettorale, almeno io così ho capito. E quindi io ritengo che invece, come in tanti altri paesi occidentali, le soglie di sbarramento siano giuste. Io credo che servano delle grandi formazioni politiche e i processi di aggregazione si facilitano a volte anche con le leggi elettorali. Rispetto al suo riferimento un po' romantico, come siete stati tante volte una realtà esclusa, io mi ricordo che noi facemmo la battaglia con l'MSI contro il passaggio al sistema maggioritario, quando ci fu il referendum di Mario Segni, no? Faremo una battaglia perché pensavamo di essere cancellati dalla geografia politica. Poi passò quel maggioritario, nel 94 ci furono quelle elezioni con la discesa in campo di Berlusconi, si formò un'alleanza da cui poi è partito un processo che oggi ci porta al PDL ed andammo al governo. Pensavamo di essere cancellati, facevamo una battaglia contro il referendum di Segni. E poi invece vedete come sono imprevedibili gli eventi della politica. La legge elettorale è uno strumento, non è un fine in sé, quindi io sono favorevole, senza alcuna acrimonia o polemica, agli sbarramenti, ai processi di aggregazione, perché credo in una democrazia bipolare. Temistocle da Parma, grazie. Buongiorno dottor Ferrara, complimenti per la trasmissione. Grazie. Che mi riguarda, la soglia dello sbarramento è troppo bassa, nel senso che quando lo sbarramento è alto si sa a chi attribuire le cose. Da sempre in Italia abbiamo avuto questo problema, non si sa mai di chi è la colpa né la responsabilità. Proseguendo in questa direzione sarà meglio per tutti. L'argomento di Storace che dice, signor Temistocle, dice a tutti gli altri, dice, ma se volete semplificare votate in senso semplificato, votate i grandi partiti, ma perché lo volete imporre agli elettori che invece desiderano essere rappresentati? Lei come non lo risponde? So, a me sembra un fatto di tipo pratico. A me è sembrato che quando la soglia di sbarramento non è praticamente inesistente, non si sa mai a chi attribuire le colpe, e questo è un vetro di qua. Mi sembra che vada nella direzione dell'orticello personale, no? Da coltivare. Non mi sembra tanto un fatto di pluralismo così nobile come lo stanno descrivendo, sa? Bene, Giovanni da Roma, per un parere diciamo diverso da quelli di maggioranza dei sì, telefonatori. No, io sono a favore della eliminazione di questo 4% in quanto la rappresentanza va garantita alle europee. Non è un'elezione politica in cui bisogna aggregarsi per governare, per riuscire a governare, anche se non sono d'accordo, però insomma è più comprensibile una cosa del genere. Lei è favorevole quindi allo sbarramento alle politiche e contrario alle europee, mi pare di capire. Esattamente. Bene, Storace. Sono abbastanza incuriosito dagli argomenti dell'onorevole Gasparri. e vorrei tentare di far capire alcune cose. Anzitutto deve spiegare, se vuole, quali poi sono gli effetti di questa legge che propongono, perché l'anno scorso la sinistra radicale, io credo che poi la forza della disperazione porterà l'aggregazione a sinistra, raggiunse il 3% col ricatto del voto utile. Credo che senza questo ricatto lo potrà superare. Alla fine non saranno riusciti nemmeno a fare il favore a Beltroni. È vero che adesso è Bettini che sostiene questa tesi, e quindi Gaspari non ce l'ha più con Bettini, annunciava i dossier fino a un po' di tempo fa, però succede in politica, diciamo. Alla fine l'unico effetto è creare difficoltà a noi. Non dico che l'hanno fatto per noi. L'effetto è questo, perché oggettivamente è più complicato dal 2,5% arrivare al 4%. Diciamo si qualificano più come controdestra che come centrodestra. E a me fa piacere vedere in Parlamento una bella battaglia che stanno facendo 8 deputati di una formazione minore che è entrata in Parlamento con meno voti di noi, l'MPA. Io ieri ho telefonato a Lombardo per ringraziarlo. L'MPA, ma possibile, sono, diciamo, gli autonomisti siciliani del Presidente. Ma è mai possibile che non ci sia la capacità di ragionare sul diritto ad essere rappresentati in un Parlamento che non deve esprimere un governo? Allora, quello che succede in realtà è che loro sanno che l'anno scorso è andato in scena il grande inganno del voto utile. Ora hanno paura del voto umile, cioè quello della gente che libera finalmente potrà votarci. Hanno un processo di costruzione di questo partitone del PDL, non dico difficile perché saranno costretti a farlo in mezza giornata di congresso dopo aver stabilito le quote dal notaio, e vogliono impedirci di presentarci. La stessa storia del finanziamento, io la voglio dire. Scusi, perché Storace, non sarebbe più efficace la sua battaglia dentro il PDL? Non ci credo, io voglio stare in un posto dove credo nei valori, in valori condivisi. Io non voglio travestirmi da antifascista in servizio permanente effettivo dopo una vita in cui ho detto cose molto diverse. Uh-huh. Avrò diritto a questa libertà, insomma io voglio essere democratico senza indossare vestiti altrui. Credo che sia un diritto, è legittimo che Gasparri cambi opinione, sarà legittimo anche mantenere la propria opinione. Allora voglio dire anche questa storia del finanziamento, perché è una delle polemiche più becere che ho mai letto. Il finanziamento è la parte scabrosa di tutto il nostro discorso. No, dobbiamo interrompere un momento per la pubblicità. 800 24 00 24, stiamo parlando dello sbarramento al 4% nella legge elettorale per le europee, concordato da Berlusconi e Veltroni e avversato ferocemente dalle formazioni politiche minori che rischiano di non superarlo. E c'è la questione dei rimborsi, che si spiega molto facilmente e rapidamente. Pare che in questa legge, che ancora non è stata varata ma che da martedì, mercoledì in avanti della prossima settimana dovrebbe essere rapidamente approvata, come spesso succede negli accordi tra le grandi forze politiche che dominano un Parlamento, sarà inclusa anche una clausola sui quattrini, e la clausola è molto semplice: non avrà i rimborsi chi non supererà lo sbarramento del 4%, il che è drammatico perché, ne parliamo è con Storace, non verranno anticipati dalle banche i soldi per fare la campagna elettorale, questo è il punto fondamentale. Allora, voglio dire, io guido una formazione politica che non ha, diciamo, un grande magnate alle spalle, diciamolo così, no? Non ho il... Aspetti, c'è Paolo da Macerata. Sì. Prego, Paolo. Buongiorno. Lei mi sembra diffidente verso le motivazioni dei piccoli partiti. Pronto? Sì, Paolo, mi sembra diffidente verso le motivazioni dei piccoli partiti. Ma vede, cioè, il fatto è questo, io rimango impressionato dalla sicumera di questi signori di essere i rappresentanti della democrazia, i salvatori del popolo. Perché vede, il fatto è questo, noi l'abbiamo avuto fino all'anno scorso, insomma, una marea di partite e partitini, ma non mi sembra che siano riusciti a risolvere i nostri problemi meglio di quello che sta facendo l'attuale governo. Non perché io sia un sostenitore dell'attuale governo, ma cioè guardando le cose come stanno, insomma, mi sembra che abbiano solo fatto una gran cagnara, un gran casino, sino soprattutto interessati dei loro problemi e dei loro soldi. Perché vede, a ben vedere in Italia purtroppo la politica è l'unico posto garantito dove i soldi sono tanti, intoccabili e sicuri. Vabbè, ecco, su questo tema, diciamo, Berlusconi Paolo è un noto altruista, quindi li fa gli affari degli altri. Allora, dicevo, non è che c'è la clausola, non c'è la clausola, perché oggi a legislazione vigente, se prendi il deputato europeo, hai diritto ad accedere al rimborso. Noi non abbiamo soldi sulla montagna o nella botola, e quindi anticipiamo quattrini. Poniamo il caso, una forza politica arriva al 3,9%. Sì. Allora, la sfida che io voglio lanciare a questi signori: dite ai cittadini che quei finanziamenti corrispondenti con la legislazione vigente al 3,9 non ve li intascate voi che state dal 4,1 in poi, perché questa è la truffa. perché tra le tante tante truffe che ci sono, la torta, lei dice, non soltanto negano i finanziamenti, ma se li per prendono poter loro, direbbe Di Pietro, se li fregano loro. Se li fregano. Allora su questo bisogna essere seri, perché su questa questione sarebbe un po' più difficile trovare l'accordo. Lei ha citato Di Pietro e allora io devo ritornare a Paolo Ferrero. Ci mancherebbe. Ferrero, io introdurrei, abbiamo detto prima, D'Alema dice, ma magari poi il voto utile stavolta va a scapito del Partito Democratico. D'Alema, Bersani hanno dei grossi dubbi su questo sbarramento. Io adesso direi che c'è un altro dubbio che riguarda voi. E questo Di Pietro mi pare che ramazza tutti i voti di protesta, tutti i voti, diciamo, radicali, perché fa il protestatario in capo, se la prende col Presidente della Repubblica che accusa di non essere arbitro, di dormire, cioè fa delle cose senza clamorose. Fa delle cose clamorose che si vedono, che si notano, insomma, è il visibile, diciamo, super oppositore di Berlusconi, del governo. E toglie spazio, toglie aria, toglie ossigeno, secondo me, a tutte le altre posizioni, diciamo, di protesta sociale, che hanno naturalmente altri programmi, altre idee, altre carature, un'altra cultura, un altro stile. Però quello che si vede oggi è Di Pietro che contesta, che si batte. Allora, per voi sarà complicato, anche se poi alla fine farete questo cartello elettorale della falce e martello, superare questo sbarramento, anche perché Di Pietro vi porterà via molti, molti voti, o no? Però questo, se permette, è una discussione politica in cui Di Pietro fa il suo mestiere, ognuno fa il suo più o meno bene, e se lui c'ha i voti e noi non li abbiamo è colpa nostra e non colpa sua, diciamo. Quindi questa è il problema. Io invece vorrei rimanere sul tema di stamattina, perché mi interessa dialogare con le posizioni contrarie alle mie che esprimono gli ascoltatori, sì, per segnalare alcuni elementi. Il primo, che in Europa non si elegge un governo, quindi il problema del bipolarismo, così come si è costruito in Italia, non esiste proprio. Secondo, su cui io inviterei a riflettere, i gruppi a livello europeo vengono fatti su base sovranazionale, per cui i parlamentari eletti in Italia si iscrivono a gruppi che hanno anche altri parlamentari, credo minimo 15, quindi non è che si aumenta una frantumazione in Europa, perché poi quei gruppi sono quelli, non è che ne vengono fuori 57 con chissà che altre cose. Terza considerazione, non esiste un governo, ma esiste la Commissione europea, esistono delle proposte di direttive europee, quelle che ne so, che provano a allungare l'orario di lavoro piuttosto che mettono dei limiti sulle questioni ambientali, o la Bolkestein, su cui si è discusso tanto, per dire. La cosa che vorrei far notare è che tanto i deputati che verranno eletti nelle liste di Berlusconi, quanto quelli che verranno eletti nelle liste di Veltroni o nelle liste di Di Pietro, finiranno dentro gruppi europei che complessivamente sostengono la politica della Commissione, perché normalmente nel Parlamento europeo, diciamo, il tipo di aggregazione che c'è lei vuole dire se ci escludono non ci sarà nessun voto d'opposizione all'Europa. Semplicemente qui però scusi no, segretario, non è una cosa da poco. No però segretario, lei ha detto che vuole discutere con le obiezioni degli ascoltatori. Gliene propongo una, perché le obiezioni sono molto semplici, non sono così complicate, la gente non entra così nel merito, non si tratta di però poi lo paga il merito. Sì, può essere naturalmente che si debba anche giustamente rimproverare un eccesso di semplificazione agli ascoltatori, però bisogna sentire che cosa dicono. Per esempio, per lei, Ferrero, che è capo di un partito che si sta scindendo e che dovrebbe fare una coalizione con un altro partito che è frutto di una precedente scissione, quello di Diliberto, i Comunisti Italiani, senta cosa dice Michele da Milano. Michele. Sì, buongiorno, grazie. Sì. Appunto, mi chiedo come possiamo fidarci di gruppi che appartengono e derivano direttamente dalla stessa ideologia, in questo caso comunista, nell'altro, me lo lasci dire, fascista, comunque di destra. Non riescono a trovare l'accordo tra di loro, scindendosi in partiti partituncoli, sempre più piccoli. Come possiamo sperare che garantiscono una stabilità E come facciamo a non farci venire il dubbio che invece l'obiettivo finale sia, non esagero, la poltrona con la valigetta piena di soldi che c'è sotto? Ecco, questo è grazie Michele, questo è l'argomento ipersemplificato. Siete troppo poco giustificati, perché uno dice, ma come Rifondazione, poi c'è il Partito dei Comunisti Italiani, poi, cioè, e non si mettono d'accordo, e adesso c'è anche una scissione, nasce un altro Partito di Rifondazione, non capiscono perché Storace non trova un accordo con la destra per stare tutti insieme in un partito unico. Cioè, io lo spiego, sì, io un lo attimo, spiego. Un attimo, però adesso Ferrero. Prego Ferrero. No, su questo però io farei notare che un'ideologia in sé non fa una politica. Credo che oggi in Italia più o meno tutti si definirebbero liberali, quelli dei grandi partiti, eppure stanno chi nel centrodestra e chi nel centrosinistra. Non vedrei altra ideologia che tiene come collante. Quindi diciamo così, l'elemento dell'ideologia in sé non è un elemento sufficiente. La cosa che però io vorrei sottolineare è questa, che per quanto ci riguarda... Ferrero, mica si capisce quello che ha detto. Cioè, l'obiezione è, siete troppo frammentati, pulviscolari, perché cioè, lei non risponde all'obiezione dell'ascoltatore. Però ho solo detto una premessa, che oggi in Italia dire comunista, oggi che i comunisti sono pochi percentualmente, significa già dire una posizione politica. Dico, guarda che no, che è un'idea generale, si possono avere posizioni diverse, così come oggi chi si definisce liberale lo trovi tanto al centro-destra quanto nel centro-sinistra, semplicemente questo. Secondo, io oggi non propongo di garantire, non mi candido a garantire la stabilità, mi candido a dire c'è una fascia di popolazione crescente che vede peggiorare le proprie condizioni, addirittura finire sotto la soglia della povertà, che non è rappresentata dalle posizioni dei grandi partiti ed è penalizzata dalle politiche che i governi che si sono succeduti hanno fatto. Vorrei rappresentare quella fascia e quegli interessi materiali lì. Non è una stabilità questo, è il fatto di non lasciare da soli quelli, ma di farli vedere. Così forse come la CGIL oggi sta rappresentando i lavoratori rispetto a un quadro di accordi tra governo, sindacati, CISL, UIL e Confindustria, che va, a mio parere, in una direzione sbagliata. La domanda è: che ci sia una rappresentanza politica di quei disagi, di quelle posizioni, è utile per la democrazia o quello va messo sotto il tappeto e impedire che si esprima? Io penso che sia utile. Beh, questo sì, questo è ovvio che lei lo pensi, però ripeto, queste obiezioni semplici dovrebbero avere risposte altrettanto semplici. Ma ci sono semplici. Risposte semplici? Prego, prego. Perché qui sembra quasi un concetto di superiorità razziale. Lei vuole votare un partito grande, io voglio votare un partito meno grande. A lei è concesso, a me no. Perché lei ha più diritti di me? E questo comporta che a quell'ascoltatore che diceva vogliono la poltrona... Michele, sì. No. Ecco, Michele, io non lo rimprovero affatto, perché se il dibattito è così basso non è colpa sua, è colpa di chi non la leva. 72 deputati europei, se io non sono eletti, non è che diventano 71, sempre 72 restano. Se noi non accediamo al rimborso, non è che ridanno a Michele i soldi, sempre quelli se li fregano. Quindi è davvero una cosa incredibile. Lo sbarramento, vede? In Europa si rappresentano 27 paesi e almeno 100 partiti. Perché questa è la realtà. Ma di che cosa stiamo parlando? 100 partiti europei che poi, ha ragione Ferrero, si devono raggruppare. Chi ha spiegato ai cittadini che ci vogliono almeno 6 nazioni per rappresentare un gruppo in Europa? Quindi questa storia è una grande balla. Gasparri, qual è la vera motivazione politica per cui dopo tanta esitazione, dopo hai detto no, io con quelli non ci parlo, eccetera, poi alla fine... è caduta la linea con Gasparri, niente, allora devo rinviare. È la fine del controdestra. Devo rinviare la domanda a un momento più favorevole. Edoardo da Napoli con una proposta suggestiva: la destra e la sinistra che si coalizzano per superare lo sbarramento. Pronto? Edoardo, sì. Buongiorno, salve. Buongiorno. Premetto che io non ho simpatia per nessuno dei partiti, però ritengo che rappresentino una cultura che debba essere rappresentata, e premetto che ritengo lo sbarramento del 4% indispensabile per la politica italiana. Io volevo lanciare una proposta un po', diciamo, strategica. L'ho capito. Sì. Se lui dice, Torace dice ci stanno fregando, fregateli voi, coalizzatevi solo per superare lo sbarramento. Tutti insieme, destra e sinistra. Metà candidati di una parte e metà dell'altra. Poi stabilirete voi il meccanismo interno per capire i voti che determineranno quanti andranno una parte, quanti all'altra e quanti potranno essere. No, meccanismo, ci sono le preferenze, da questo punto di vista possono scegliere gli elettori. Sarà facile trovare, c'è il manuale Cencelli, ci sono altre cose, sarà facile trovare. Edoardo ha fatto una proposta da Napoli, una proposta un po' eccentrica, un po' strana. Gasparri è di nuovo in linea, poi sentiremo cosa ne pensano Storace e Ferrero. Gasparri, prego. Ma guardi, io credo che insomma l'argomento sia molto semplice. Per quanto riguarda i finanziamenti pubblici non mi sembra che sia un argomento decisivo. Peraltro noi da destra, anche con Storace, facemmo anni fa battaglie referendum, pur non avendo Berlusconi, come dire, la guida del partito, perché erano battaglie di AN contro il finanziamento pubblico. Perdemmo pure dei referendum, quindi su questo poi c'è una opinione evidentemente controversa anche tra gli elettori. E non mi pare un argomento decisivo, perché uno di quegli argomenti, tra l'altro, che i cittadini meno apprezzano e meno, come dire, considerano centrale. Io credo che, a maggior ragione per le elezioni europee, uno sbarramento si giustifica. In Europa ci sono due grandi partiti principali, c'è già un bipolarismo di fatto. Partito Popolare Europeo, che non è più solo il Partito dei Democratici Cristiani, come classificheremo Sarkozy, che a mio avviso è un uomo di destra nel PPE, e così via, si possono fare molti esempi, conservatori inglesi o popolari spagnoli o altri sono diversi tra loro, ma hanno un tessuto comune nel quale anche il PDL si riconoscerà, perché a volte appunto penso che i gollisti francesi hanno posizioni più a destra di quelle che hanno molti politici di centrodestra italiani. Che vuol dire più a destra? Che vuol dire più a destra? Spiegala un po' questa cosa. Dico che per esempio Sarkozy sui contenuti, facci capire un po'. Penso che per esempio sulle politiche dell'immigrazione le posizioni di Sarkozy le condivido totalmente. Pure la Turchia, pure il no alla Turchia in Europa? Senti, Storace, io non ho potuto parlare, che l'ho ascoltato. Se potessi parlare. Ma non mi litigate. No, ma è una domanda, mica c'è da inquietarsi. Sì, ma adesso voglio parlare del Parlamento, poi possiamo parlare anche della Turchia e di tutto il resto. Allora, quando posso parlare, che mi dà la parola il direttore. Prego. Quindi ritengo che l'aggregazione europea sia su grandi partiti. Ora, fare una battaglia per non avere il 4%, avere un seggio al Parlamento europeo, a che serve a quello che viene eletto? Perché non credo che un deputato europeo, perché di questo poi stiamo parlando, di un partito piccolo con lo 0,6%, cosa che con la legge in vigore può accadere in Italia, arriva a Strasburgo, un Parlamento molto grande, dove è molto difficile, se non si formano grandi aggregazioni, avere una voce in capitolo, far passare una tesi, una posizione, che fa questo deputato europeo? Prende lo stipendio per se stesso e giustifica così con la bandierina una presenza. Gasparri lo fa gratis il deputato. L'Europa impone. Lui lo fa gratis il deputato. ma che vergogna, argomenti, per favore. È veramente miserevole. È miserevole proprio questo argomento. Perché tu lo fai gratis il deputato? Adesso non esageriamo. 800 24 0024, lo sbarramento del 4%, la rivolta dei partiti più piccoli. Un attimo Gasparri, scusi, volevo dire una cosa a Ferrero, al segretario di Fondazione Comunista. Il giornale Europa dice i partiti piccoli di sinistra se affondano, se non trovano un'identità, e per loro colpa, non se la possono prendere col Partito Democratico. E Vendola, per esempio, critica questa sua posizione attendista sul cartello elettorale. Vendola, che è stato fino a ieri un autorevole esponente del suo partito, che è il presidente della regione Puglia, insomma, vinse delle primarie, un personaggio carismatico nel vostro mondo, dice: e facciamolo questo cartello elettorale, su, che siamo a discutere del 4%. Dice: la forza politica della proposta del cartello ha un valore in sé, tanto più all'indomani della nostra fuoriuscita da Rifondazione, da Speranza a tutto il popolo della sinistra, e rende più efficace la lotta contro lo sbarramento. Lei invece, Ferrero, dice: no, adesso prima facciamo la lotta contro lo sbarramento, poi eventualmente valutiamo il cartello. Anche qui c'è come la sensazione di uno spirito un po' mandarino, cioè che non è chiaro, che non è ovvio che vi dovete unire, no? Perché non lo dice subito? Ma intanto perché tragicamente un cartello l'abbiamo fatto ad aprile e abbiamo preso il risultato peggiore nella storia della sinistra dall'Unità d'Italia in avanti, e quindi francamente c'è qualche problema. Secondo, è del tutto evidente che non tutte le forze sono disponibili a fare un cartello, banalmente, E io non capisco perché nel momento in cui è palese che c'è una battaglia su sbarramento sì, sbarramento no, battaglia in cui c'è un problema da far discutere, io penso che sia un'occasione per discutere se in questo paese è giusto che ci siano solo due schieramenti che si somigliano o se è giusto avere un pluralismo di posizioni politiche che rappresentino anche una dialettica sociale, perché se no in nome della semplificazione appunto si può anche abolire la CGIL visto che non ha firmato il contratto. Io penso che la battaglia e la discussione sia da fare questo oggi. Dopo che se ci sarà, se passerà questa legge si discuterà del cartello, ma non capisco perché devo saltare i passaggi e togliere le castagne dal fuoco. Va bene, lei che, francamente, è libero ovviamente di fare questo ragionamento. Le faccio ancora una domanda, i più duri, i più acerrimi critici, gli acerrimi critici dell'accordo Veltroni-Berlusconi dicono c'è stato uno scambio. Claudio Fava, per esempio, del piccolo gruppo della Sinistra Democratica, sono lui e Fabio Mussi, eccetera, e Claudio Fava dice hanno fatto uno scambio sul destino, sulla sorte del sottosegretario Cosentino. Il sottosegretario Cosentino è stato accusato in un'inchiesta giornalistica che parla di propalazioni di pentiti, di collaboratori di giustizia, di essere una specie di portavoce della camorra, dei Casalesi. L'inchiesta insomma. Della magistratura, non sì. giornalistica. Se no, l'inchiesta giornalistica ha rivelato l'esistenza di un'inchiesta della magistratura, ma non si sa assolutamente niente dell'inchiesta della magistratura ufficialmente fino a questo momento. Quindi io ho detto correttamente. Io mi dimisi un minuto dopo aver letto un articolo di giornale. Ecco. Vabbè, c'è un'etica anche in questo. Forse ha fatto male. Può darsi, forse può darsi, non può doveva darsi, farlo. Può darsi, siamo quelli che fanno male. Infatti, noi. Allora, c'è chi dice c'è stato uno scambio sul destino di Cosentino, addirittura uno scambio sul terreno della giustizia e delle riforme della giustizia, soprattutto in materia di intercettazioni. I sospetti sono molti. Lei, Ferrero, anche per capire lo stile della sua segreteria, avalla questi sospetti? Lei pensa che c'è stato un patto scellerato, per dire così, per usare una vecchia formula, oppure pensa che alla fine è soltanto un accordo politico-elettorale la cui logica è comprensibile? A me pare del tutto evidente che ci sia un terreno di scambio esterno alla legge elettorale, perché quella legge elettorale che viene proposta adesso non è la composizione tra quella del centrodestra e quella del centrosinistra, perché Berlusconi chiedeva di togliere le preferenze con una logica dal suo punto di vista, di risparmiare tanti soldi di propaganda decidendo lui dal centro chi mettere primo, secondo, terzo e quarto. Invece questa legge si limita ad alzare la soglia, e cioè va nella direzione che chiedeva il Partito Democratico e l'UDC. La mia opinione è che questo sia un favore che Berlusconi fa a Veltroni, che gli ha chiesto questo ed è emerso pubblicamente, cioè i parlamentari di AN hanno detto che era Veltroni ad aver chiesto di fare lo sbarramento, e dal comportamento che vedo da parte del Partito Democratico sul federalismo, sulle intercettazioni, sulla riforma della giustizia, e mi pare di cogliere su qualche elemento del Consiglio di amministrazione della RAI, mi pare che ci sia questo ragionamento. Ecco, però scusi, segretario, se è Veltroni, proprio lui, che vi vuole semplicemente uccidere elettoralmente sul piano parlamentare e dunque politico, e se per uccidervi addirittura accede a scambi molto impropri, molto loschi, tra virgolette, secondo le accuse che con un tono molto civile tuttavia lei gli sta facendo, ma che senso ha che voi gli teniate in piedi le giunte in Piemonte, in Puglia e in tante altre regioni d'Italia, in Toscana, nel Lazio? Che senso ha? Questo tutti se lo domandano. Invece lei, Ferrero, ha escluso qualunque tipo di ritorsione politica che favorirebbe Berlusconi nelle giunte locali. Però è una ben strana contraddizione. Quello mi vuole ammazzare e io lo tengo in piedi. Ma banalmente perché io non penso di tenere in piedi il Partito Democratico, penso di tenere in piedi una giunta che faccia delle politiche che sono più favorevoli per la popolazione, e quindi semplicemente penso che se mi togliessi di mezzo delle amministrazioni locali favorirei semplicemente l'accordo tra il PD e l'UDC e la definitiva sanzione che in Italia esiste uno schieramento di destra che attualmente governa e con Beltoni all'opposizione governerà i prossimi 30 anni e uno schieramento di centro all'opposizione. con la scomparsa e la marginalizzazione della sinistra. E se no che questo è il disegno di vedo Storace molto sconfortato. Quando lei porta argomenti agli altri. Quando lei dice porta che governeranno altri 30 anni, Storace è molto sconfortato. Pronto? Sì. Pronto, direttore? Eccomi, chi è? Ecco, sono il nostro Gaspari. Prego. Ma io volevo dire una cosa. Parliamo della L'avete sinistra. Fatto sto scambio? Che c'è nello scambio? Diteci. Ma poi non c'è nessuno scambio, lo sbarramento. Ma come non c'è lo scambio? In politica c'è sempre uno scambio. Stavo prima spiegando, interrotto, che in Europa, più che in Italia, servono grandi aggregazioni, perché in un grande Parlamento la presenza del singolo parlamentare, del singolo movimentino, rischia di essere assolutamente irrilevante. L'esperienza lo dimostra, quindi io credo che lo sbarramento sia politicamente... Va bene, questo l'abbiamo accurato, è un dato politologico. Ma io faccio un esempio a sinistra, no? Cioè, ha detto Ferrero poco fa, l'esperimento di fare il cartello Verdi Rifondazione di Liberto è stato un fallimento, ma forse non li hanno votati perché li hanno giudicati male per come sono stati nel governo, per le polemiche continue che sollevavano all'interno della coalizione. Non era tanto l'aggregazione forse che è stata bocciata, quanto la politica fatta negli anni precedenti dagli aggregati, ma questo è un altro argomento. Io dico a sinistra, oggi un elettore di sinistra, no? Va alle urne e dovrebbe trovare il partito di Rifondazione Comunista di Ferrero, poi trova quello del partito di Diliberto e il partito dei comunisti d'Italia, che non ho capito in che si differenzi. Poi c'è quello di Ferrando, che stava in Rifondazione Comunista e ha fatto un partito di cui non ricordo il nome. Poi adesso Vendola, con alle spalle Bertinotti, poi c'è Giordano, persone importanti di quella storia, fanno un altro partito, la Rifondazione della Sinistra con la Stella Rossa. Ora io dico, un elettore, faccia un sondaggio Ferrero, no? Tra gli elettori della sinistra, hanno capito qualcosa? Qual è la differenza vera, a parte che Vendola ha perso il congresso? Vabbè, lei adesso fa una tirata. Fa una... Perché in Europa devono andare gli elettori? Lasciamo rispondere Ferrero. Il rimborso a Vendola, a Ferrando e a quegli altri. Cioè, no, sono cose irrilevanti politicamente. Gaspari, basta lasciare decidere gli elettori. Perché? Gaspari, d'accordo? Gaspari si è scaldato in una tirata contro la logica incomprensibile del modo di stare assieme. È finta di essere anticomunista. No, Gaspari, basta lasciarglielo decidere agli elettori. Perché lo dovete decidere lei e Veltroni? L'hanno messo sotto lo sbarramento. Ecco, allora semplicemente. Noi diciamo di farlo decidere agli elettori. Semplicemente, no, visto che all'Europa è sempre andato con questa legge e non mi sembra che in Europa sia successo un disastro a causa di questa legge elettorale italiana, io dico semplicemente di lasciare questa. Chi avrà i voti per passare diciamo così, elegge un deputato, lo eleggerà, chi non ce li ha. Va bene, molte telefonate contro i piccoli partiti, noi scegliamo ogni tanto di andare controcorrente. Alessio da Como. Alessio. Buongiorno a tutti. Como, anzi devo dire, ho detto Como, davvero romanaccio. Como, Alessio. Pronto? Da Como. Sì. Prego Alessio. Sì, niente, io ero un ex militante della destra Fiamma Tricolore, sì, che ha scelto di non stare più in questo sistema, perché prima di tutto ci ghettizza, vuole costringere tutti al pensiero unico in due schieramenti che sono la stessa identica cosa. Però qual è il problema? Il problema è che noi non è che ci mettete lo sbarramento e ce ne stiamo chiusi in casa. Create un paese reale di militanti, e Francesco ci conosce come siamo i militanti noi dell'area di pensiero, che comunque politica la fa. Sono nate centinaia di associazioni culturali, circoli, Casa Pound, che fanno politica obbligati a stare fuori dal sistema. Io non penso sia una cosa logica e seria. Va bene, è il grande argomento di coloro che dicono: se tu escludi dalla rappresentanza parlamentare forze che hanno anche un'antica tradizione. C'è la quota di Napoli a rispondere. Un'antica tradizione italiana, sì, lo so, c'è tanta roba da dire ancora, Storace. Ma... No, perché si suggerisce la furbizia di fare l'alleanza degli esclusi. Avrei fatto la furbizia col PDL e facevo il ministro. Certo, ovvio. Bene, grazie a tutti voi che avete telefonato. Grazie a Ferrero, a Gaspari, a Storace. In redazione Franca Fossati, Gloria Guerrera. In regia Alessandro Chiappini e Giorgio Mattei, la linea Gianluca Nicoletti con Melog 2.0. Grazie a tutti, ci vediamo. Io penso sempre che ci sia una telecamera davanti a me, in realtà c'è solo un microfono. Ci sentiamo lunedì mattina puntuali alle 9. Grazie.